perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Quando cambi qualche cosa nella vita, non so se ti dispiace o se ti adatti a un ritmo diverso. Vediamo se poi il ritmo sarà diverso, perché non credo proprio al momento, ma comunque sì, no, certo, c'hai tutto l'amore per una certa cosa, allo stesso tempo anche però se non la soddisfazione, il sollievo di pensare che questa cosa l'hai messa in mani buone, di questo ne sono sicuro, perché gente per molto per bene, buona anche dal punto di vista caratteriale. Taglia la sanità al centro dello scontro sulla manovra. Per il cuneo fiscale si prospetta un taglio da soli 3 miliardi di euro al momento. Inter è fatta e la voce di Moratti l'avete sentita, dice: non so se rimarrò presidente. Oggi le firme per il passaggio della squadra all'indonesiano Tohir. Dall'Assemblea all'Italia il via libera all'aumento di capitale da 300 milioni. Intanto British Airways attacca, l'intervento di Poste va sanzionato da Bruxelles, sono aiuti di Stato. Napolitano torna a premere per le riforme istituzionali. Intanto Bondi del PDL lo attacca, nutro dubbi sull'utilità del suo ruolo. 90 anni fa nasceva Italo Calvino, il ricordo del suo allievo alle Einaudi, quando mi fece riscrivere 13 volte un risvolto di copertina. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, quasi dovuto l'omaggio, ormai lo sapete, insomma, quando abbiamo trattato di sport lo avete capito, sono romanista, ma dovuto l'omaggio a Massimo Moratti in questo suo saluto di oggi all'Inter, ne parleremo più avanti nel corso della nostra trasmissione. In apertura però vogliamo parlare di legge di stabilità. Dunque iniziamo con una voce molto molto molto breve, sentiamo. Torturerò io il ministro dell'economia nelle prossime ore. Ed è la voce di Beatrice Lorenzin, ministro della salute. I tagli alla salute, alla sanità sono proprio al centro dello scontro in queste ore, come vi dicevamo dai titoli. Più avanti ci collegheremo con i giornalisti del Sole 24 Ore che stanno seguendo tutta la vicenda, hanno in mano tutte le ultime bozze, stanno cercando di capire che cosa emergerà e cercheremo di farvelo capire anche a voi. Nel frattempo cerchiamo di fare un punto anche politico con il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. L'appuntamento, Simone, dunque per le 17 sarà un consiglio dei ministri non breve, visti tanti nodi che restano da sciogliere. Anche in queste ore si sta lavorando per arrivare a Palazzo Chigi con dei compromessi di base che riescano a mettere d'accordo le esigenze di spending review e di controllo dei conti pubblici con misure che mirino alla crescita senza intaccare più di tanto il sistema di welfare e gli enti locali. Sono due i temi allora al centro delle continue riunioni al Ministero dell'Economia. Il primo, le risorse da destinare al taglio del cuneo fiscale. Le parti sociali chiedono 10 miliardi, il governo ha sempre parlato di 5, ma ieri sera l'importo messo nella legge di stabilità sarebbe sensibilmente più basso, vicino ai 3. Altro capitolo, la sanità, stiamo lavorando alacremente, ma ancora non abbiamo trovato la quadra e comunque i tagli saranno meno del previsto, ha detto il ministro degli affari regionali Delrio. Disponibile alla lotta agli sprechi il ministro Lorenzin, ma non a tagli lineari, ottimista comunque il ministro dell'economia. L'accordo sulla legge di stabilità c'è, ha detto Saccomanni. Sì a critiche positive sul provvedimento, ma che siano propositive. Le parole infine del Presidente della Repubblica Napolitano. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo per questo aggiornamento. Come sapete nella legge di stabilità, poi ci torneremo più avanti, entra al posto della TARES la TRISE, il tributo sui servizi comunali, diviso in due parti, TARI e TASI. Abbiamo lanciato questa mattina un giochetto su Twitter, se ci volete stare, si chiama Tassacronimo. Bene, tra quelle che abbiamo selezionato, IT, ossia imposta su tutto, IVAFB, imposta sul valore aggiunto sulle facezie da bar, firma Angelo Bocconetti. Se volete potete giocarci, intanto sentiamoci il punto di Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. È appena il caso di ricordarlo, la legge di stabilità che il governo si appresta a varare non è solo un documento economico rilevante, è il principale atto con cui l'esecutivo e la maggioranza che lo sostiene definiscono se stessi e il proprio rapporto con il cosiddetto paese reale. È o dovrebbe essere un manifesto politico compiuto, qualcosa in grado di dare un senso anche alle infinite diatribe che segnano le cronache politiche nei mesi precedenti. Speriamo che Letta non perda l'occasione, ma i dubbi sono tanti. Ci sono troppe contraddizioni in campo per stare tranquilli. Il Sole 24 Ore ha appena documentato l'incredibile spreco dei 15 miliardi che finiscono nel buco nero delle società controllate o partecipate dagli enti locali. Sul finanziamento pubblico ai partiti lo stesso governo ha alzato a quanto pare bandiera bianca. La tassazione continua a salire a livelli di vera vessazione del cittadino. Insomma, la legge di stabilità dovrebbe gettare un ponte di fiducia verso chi lavora, ma le premesse, diciamolo, non sono incoraggianti. Altro tema al centro del dibattito economico e politico, la vicenda l'Italia, la cui assemblea ha dato il via libera all'aumento di capitale, ma Londra non ci sta e British Airways pensa che vi possano essere aiuti di Stato. Chi parla di aiuti di Stato e accusa l'Italia di protezionismo è frettoloso nelle conclusioni. Così il ministro Saccomanni, al quale non bastava la legge di stabilità a cui pensare. Ci si mette anche la compagnia di bandiera e le accuse che arrivano da EAG, la holding che controlla British Airways e Iberia. Di aiuti di Stato ha parlato apertamente Londra, chiedendo l'intervento dell'Europa. Più cauta Lufthansa, che rimanda la palla nel campo di Bruxelles. La Commissione, a sua volta, aspetta di vedere le misure adottate. Il ministro Lupi si era già esposto, affermando che tutt'altro che di protezionismo si tratta. Il fatto che Poste Italiane entri nel capitale di Alitalia con 75 milioni è un modo per rafforzare la compagnia e permetterle di negoziare una partnership a condizioni più favorevoli, perché l'idea che Alitalia possa restare sola sul mercato non è più realistica. I soci intanto, dopo ore, si sono accordati, almeno sulla carta, via libera l'aumento di capitale da 300 milioni di euro, ma ci sarà tempo un mese per sottoscriverlo e in questo mese Air France KLM, la più critica, la più esigente sul piano delle condizioni, potrebbe anche rivedere le proprie scelte. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ieri il governo ha dato il via libera alla missione militare umanitaria per il pattugliamento del Mediterraneo. Sentiamo cosa ha detto il ministro della difesa Mario Mauro, intervenuto questa mattina a Mix 24, ospite di Giovanni Minoli. Cosetta, ma è vero che usate anche droni per identificare le navi d'appoggio oppure i barconi dei migranti? Sì, in questo senso bisogna precisare che l'utilizzo, diciamo, di sistemi a pilotaggio remotato, vale a dire i cosiddetti droni, da lungo tempo è diciamo in una chiave duale, quindi con usi anche civili, e quindi non prevede l'utilizzo di dispositivi armati, sì, ecco, ma semplicemente di dispositivi che possono passare differentemente, insomma, dalla meteorologia all'intelligence. Ecco, ma non è uno strumento prevalentemente di guerra i droni? Guardi, molto di quello che è tecnologia militare nel tempo poi è fondamento della vita civile. Pensi a internet. Non è che siamo entrati in guerra senza dirlo, no? No, nel modo più assoluto. Senta, ed è anzi a riprovare che le forze armate italiane nel dispositivo della nostra Costituzione contribuiscono alla pace e alla stabilità. Senta, non ci saranno tasse? Se ci riferiamo alla legge di stabilità, dovrà avere la pazienza di attendere fino a domani e comunque l'intendimento dell'esecutivo è sicuramente quello di diciamo evitare agli italiani di dover pagare un'altra tassa. E oggi a Roma si è svolta la conferenza Accesso alle frontiere, accesso alla protezione, con la partecipazione del Consiglio italiano per i rifugiati. La nostra proposta per risolvere il nodo della legge Bossi-Fini è quella di aprire canali per un arrivo legale protetto in Europa, ha detto Christopher Hein, direttore del CIR. Lo ha intervistato Cinzia Caserio. Come si potrebbe conciliare la sicurezza e le attività di contrasto all'immigrazione irregolare con i diritti umani? Questo è il problema di fondo, anche in vista delle decisioni prese ieri di rafforzare la sorveglianza italiana nel Mediterraneo, il potenziamento quindi tanto della sorveglianza attraverso le navi come anche di aerei e elicotteri e droni. La questione è cosa si fa poi con le persone che vengono intercettate. In questo momento l'unica possibilità è di portarli almeno temporaneamente in Italia, perché non si può certamente respingere le persone in un paese come la Libia, dove non c'è alcuna garanzia per la loro sicurezza e anzi dove c'è il concreto rischio che i loro diritti umani siano violati. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano interviene alla cerimonia di consegna delle onorificenze ai Cavalieri del Lavoro, parlando di tutta l'attualità politica, a partire dalle riforme costituzionali. Occorre andare avanti. con le scelte di politica economica e finanziaria e insieme con le riforme politiche e istituzionali da tempo riconosciute necessarie. Quella riforma della legge elettorale, quelle revisioni della seconda parte della Costituzione, di cui si è già delineato il percorso attraverso il serio apporto di una commissione altamente qualificata, e si sa che al procedere di quelle riforme io ho legato il mio impegno al lato di una non ricercata rielezione a presidente, impegno che porterò avanti finché sarò in grado di reggerlo e a quel fine. Siamo al Partito Democratico, oggi la presentazione ufficiale dei candidati alle primarie nella sede romana del PD. Alessandra Schepisi è stata là. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno, una breve conferenza stampa per presentare primarie, percorso congressuale e candidature ufficiali. Cuperlo, Renzi, Pittella, Civati, questo è l'ordine stabilito da un sorteggio con il quale compariranno l'8 dicembre 4 nomi sulle schede. Entro il 20 ottobre poi ogni candidato dovrà presentare la mozione con le linee programmatiche. Le primarie, è stato ricordato, saranno aperte a tutti, potrà votare gratis chi è iscritto al PD con 2 euro, chi sottoscrive anche il giorno stesso la carta di intenti del partito, e non è stato ancora sciolto, come sappiamo, invece il nodo del ruolo del segretario, cioè se dovrà coincidere o meno con il candidato premier. Ma per il segretario Epifani tutto si sta svolgendo in un clima disteso. Il congresso resta un elemento, ha detto, di insopprimibile democrazia che rafforza il PD e la democrazia in Italia. Epifani che non è invece voluto intervenire nelle questioni che agitano in questione del PD, a partire dall'amnistia e dalla legge elettorale. Da Roma è tutto. Grazie a Sandra Schepisi per questi aggiornamenti. Ancora il luogo di sepoltura di Erich Priebke, che continua a suscitare polemiche dopo il rifiuto di Roma, il no dell'Argentina, quello di Henningsdorf, la città natale del boia delle Ardeatine. Ieri il sindaco di Fondachelli Fantina nel Messinese aveva dato la disponibilità del suo comune, dice, aveva detto, per un sentimento di carità cristiana. Oggi la giunta ha imposto una retromarcia. Arianna Filippini ha intervistato il vice sindaco Carmelo Citraro. Diciamo che abbiamo raggiunto un'intesa, ecco, questa è la novità. Naturalmente questo signore, che non oso nominare, non verrà qui a essere sepolto. Dispiace, ma ha creato tanti danni e li sta creando anche al mio paese. Il fatto stesso è che anche da morto sta creando problemi, mi creda, problemi seri, perché la gente è qui davanti al comune che attende notizie, no? E quindi non ce lo possiamo permettere di sbagliare noi. È un no definitivo? È definitivo. Quindi non accetteremo questo signore. E cioè la volontà dell'amministrazione comunale è questo. Anche se il sindaco l'ha fatto per pura carità cristiana, e quindi senza rendersi conto un po' di quello che poteva essere l'effetto. Ancora in alto mare le trattative tra democratici e repubblicani negli Stati Uniti su shutdown e tetto del debito. Negoziato nella notte con 2 scadenze nuove, e su questo che repubblicani e democratici hanno trovato un accordo al Senato. Fino al 15 di gennaio il governo potrà riaprire, fino al 15 di febbraio sarà rifinanziato il tetto sul debito. È lungo questa direttrice che i senatori repubblicani e democratici hanno formulato un'ipotesi che dovrebbe essere votata già oggi e passare poi alla Camera per il voto definitivo. Si guadagna tempo dunque, il fallimento del governo americano, come tutti prevedevano, non ci sarà, doveva essere il 17 di ottobre, ma ci sarà comunque un duro negoziato che dovrebbe partire entro breve. Questa l'intesa, naturalmente, ma dovremo poi aspettare il voto. Mario Platero, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. Naturalmente ritroveremo Mario Platero più avanti, come sempre nell'ultima parte della trasmissione in America 24. L'italiana Mivar entro fine novembre chiuderà i battenti e quindi metterà la fine alla sua storica produzione di televisori. Si continuerà a produrre qualche mobile, dice Carlo Vichi, 90 anni, fondatore dell'azienda. L'ho intervistato Cristina Carpinelli. Provvisoriamente, per forza, perché hanno smesso tutti, hanno smesso tutti e hanno smesso fino a 20 anni fa. La Mivar era l'unica che li faceva, non si fa più nulla, non si fa un computer, ma Ma questo qui lo dovevamo sapere. Lei come ha fatto, nonostante le difficoltà, a non licenziare nessuno, a non chiedere sovvenzioni pubbliche? Beh, perché? Perché io sono educato in anni passati. Perché licenziare è un fallimento, perché sapere che esiste la cassa integrazione è una vergogna. Io naturalmente ho guadagnato, la mia ha sempre fatto qualcosa di originale, di valido, e ho guadagnato bene e adesso li ho spesi. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa per la viabilità, poi nella seconda parte della trasmissione, subito dopo, parleremo innanzitutto della manovra facendoci dare qualche dettaglio sulle ultime e poi parleremo del passaggio dell'Inter a Toira, tra poco. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Non date retta alle indiscrezioni, dice il Presidente del Consiglio Enrico Letta sulla legge di stabilità. La faremo oggi pomeriggio. Intanto ci sono i tagli alla sanità al centro dello scontro. Per il cuneo fiscale si prospetta un taglio da soli 3 miliardi di euro. È fatta per l'Inter oggi le firme per il passaggio della squadra all'indonesiano Tohir. Moratti, commosso, dice: non so se rimarrò presidente. L'Assemblea dell'Italia ha dato il via libera all'aumento di capitale da 300 milioni di euro. Intanto arriva l'attacco di British Airways. L'intervento di Poste va sanzionato da Bruxelles perché sono aiuti di Stato. Napolitano torna a premere per le riforme istituzionali e per la modifica del Porcellum. Intanto Bondi del PDL lo attacca, nutro dubbi sull'utilità del suo ruolo. 90 anni fa nasceva Italo Calvino, il ricordo del suo allievo alle Einaudi. Quando mi fece riscrivere 13 volte un risvolto di copertina. E dunque, apriamo questa seconda parte della trasmissione tornando a parlare della manovra. E iniziamo, se volete, giocando un po'. Come sapete, arriverà una nuova tassa sostitutiva della TARES e in parte dell'IMU, che si chiama TRISE. Al suo interno, che è il tributo sui servizi comunali, al suo interno ci sono altri due acronimi, TARI e TASI, che insomma sono due componenti di questa stessa tassa. Abbiamo lanciato stamattina su Twitter l'hashtag tassa acronimo. Ecco gli ultimi, IP, italiani pagate. Poi Lele scrive: serve un puntuale prelievo ove si tagliano accise e l'acronimo è supposta. La TSC NECP, tassa sui cara, non è come pensi. Infine Francesco Platini, IPPPPT, imposta sui partiti personali con percentuali a prefisso telefonico. Questa è veramente bellissima. Marco Mobili, buongiorno, del Sole 24 Ore. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Allora, che cosa dobbiamo attenderci? Quali sono le ultime? Dacci qualche lume. Nel gioco degli acronimi di cui parlavi te ne aggiungo uno, se posso, che è la TARIP. Potrebbe comparire. Oddio, anche la TARIP. Dici che cos'è. Quello che pretende, vorrebbe quantomeno nei sogni il Ministero dell'Ambiente, che è la tariffa rifiuti puntuale, cioè praticamente tutti quei comuni che potranno calcolare, o anche mezzi per calcolare una tariffa puntuale in relazione ai reali rifiuti che una città, un contribuente produce, potranno, se vorranno, optare per la TARIP. Non c'è tra i tanti acronimi nelle bozze del Ministero, però potrebbe comparire, fare la sua sorpresa. Senti, dal lato invece del taglio delle tasse, perché poi anche questo naturalmente ci interessa, Confindustria e i sindacati invocano un taglio del cuneo fiscale da 10 miliardi, inizialmente se ne erano prospettati 5 da parte dell'esecutivo, almeno per il primo anno, sulla base di un piano triennale di riduzione che dovrebbe arrivare più o meno a quella cifra. In realtà per questo primo anno le ultime bozze della manovra dicono che il taglio è di molto inferiore. Appare molto morbido, almeno le ultime bozze ci danno un taglio che può arrivare al massimo, facendo i calcoli, almeno dalle stime che abbiamo noi, di 2 miliardi e mezzo, dove un miliardo e 6 sono per il taglio all'aumento della detrazione IRPEF per i lavoratori dipendenti, pensionati esclusi, e 900 milioni per le imprese che decideranno di assumere, per le quali per ogni nuova assunzione potranno beneficiare dell'esclusione di una defiscalizzazione FiniIRAP fino a 15.000 euro. Un po' poco rispetto all'attesa. Ci spieghi bene che cosa va ad incorporare questa benedetta TRISE? Ma dalle indiscrezioni, ripeto, che abbiamo dalla bozza, praticamente la TRISE ormai è noto, sia praticamente la sommatoria un'imposta a due gambe. Da una parte cammina sulla TARI, la tariffa rifiuti, o il tributo sui rifiuti, e dall'altra la TASI sui servizi indivisibili, cosiddetti, e con una parte patrimoniale che è praticamente sulla casa. La parte patrimoniale avrà un'aliquota, diciamo la TASI avrà un'aliquota dell'1 per 1000, che non si applicherà sull'abitazione principale e al massimo nell'aliquota dell'1 per 1000. Allora, e questo continuerà a pagare l'IMU. Questa è la sostanza. Ci segnalano molti ascoltatori via SMS dal Veneto che TASI in Veneto vuol dire taci, stai zitto sostanzialmente, quindi il paga e TASI sta spopolando. Saluto anche Marco Rogari, sempre del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, col quale invece andiamo ad affrontare il lato taglio delle spese, perché è qua che si sta annidando lo scontro più forte. Filippo Aureggi, riesci a ritirarmi fuori quel piccolo file che abbiamo fatto sentire, quello all'inizio? È pronto? Sentiamolo. No, non è pronto. Risentiamo Beatrice Lorenzin, se riusciamo a tirarla fuori. Ci siamo? Oh, non ci siamo. L'abbiamo trovata. Via. Torturerò io il ministro dell'economia nelle prossime ore. Torturerò il ministro dell'economia nelle prossime ore, Marco Rogari, dice Beatrice Lorenzin, in merito ai tagli sulla sanità. Si è parlato di 4 miliardi, i ministri stanno dicendo no, guardate, in realtà sono molto meno, che cosa sappiamo ad ora? Si è parlato nei giorni scorsi di 4 miliardi, per la verità già ieri il taglio si profilava più leggero rispetto ai 4 miliardi di cui si era parlato sabato e domenica, eravamo nell'ordine dei 2 miliardi e mezzo, poco più in 3 anni, con un intervento di 500 milioni per il prossimo anno. Nella notte, come sempre porta consiglio, la trattativa nella maggioranza e con i tecnici del governo dovrebbe aver prodotto un ulteriore alleggerimento di questo intervento sulla sanità, che quindi dovrebbe ridursi probabilmente attorno ai 2 miliardi in 3 anni e dovrebbe anche ridursi l'intervento sul prossimo anno. Resta il nodo dell'aumento dei ticket sanitari che dovrebbe scattare dal primo, in linea teorica, dal primo gennaio 2014, che vale 2 miliardi e con tutta probabilità, da quello che si capisce, questo aumento non ci dovrebbe essere. Per quanto riguarda invece, c'è un intervento corposo e oggi l'apertura del Sole 24 Ore è dedicata a questo, c'è un intervento corposo per quanto riguarda il pubblico impiego. È il pacchetto più consistente, siamo nell'ordine di 1,5 miliardi per i prossimi 3 anni ed è una stretta che può far male, perché praticamente viene bloccata la contrattazione per tutto il prossimo anno, è già bloccata come sappiamo, c'è un nuovo giro di vite sul turnover, vengono tagliati gli straordinari. Viene addirittura introdotta una tassa, un contributo per la partecipazione ai concorsi pubblici e poi queste misure vengono accompagnate da altri interventi, c'è un mini pacchetto previdenziale con le sterilizzazioni per le pensioni sopra i 3.000 euro di cui si era già parlato, c'è un inasprimento delle misure sugli affitti degli uffici pubblici, un intervento che era stato già varato dal governo Monti e che viene ora come reso più incisivo, e probabilmente ci saranno anche tagli, micro tagli di altro tipo ai trasferimenti ai patronati, ai CAF, quindi è un piano abbastanza vasto. Allora, vedremo quale sarà il testo definitivo. Io ringrazio tutti e due, ringrazio Marco Mobili e Marco Rogari, coppia d'attacco del Sole 24 Ore, che in queste ore insomma stanno azzannando tutte le indiscrezioni sulla manovra. Noi adesso però passiamo a parlare di calcio. Quando cambi qualche cosa nella vita, non so se ti dispiace o se ti adatti a un ritmo diverso. Vediamo se poi non sarà diverso, perché non credo proprio al momento, ma comunque Sì, no, certo, c'hai tutto l'amore per una certa cosa, allo stesso tempo anche però se non la soddisfazione, il sollievo di pensare che questa cosa l'hai messa in mani buone, di questo ne sono sicuro, perché gente per molto per bene, buona anche dal punto di vista caratteriale. E quasi più che di calcio mi viene da parlare naturalmente dell'aspetto umano, perché poi Carlo Gente, immagino in tutti i convocati, anche con Marco Bellinazzo, dell'aspetto finanziario e dell'aspetto, no, di tutti questi aspetti, e l'aspetto calcistico ne parlerete. La realtà è che la vicenda colpisce dal punto di vista dell'uomo Moratti, no? Sì. Già da un po', Simone. D'altra parte, in questi giorni si parla pochissimo di calcio e molto di quello che ci sta intorno, da Balotelli in giù in su. Oggi, per fortuna, c'è 15-10-2013, nascere Indo Inter, quindi potremo anche spostare un po' il tiro. Sì, è vero, questione umana, ci sono molti tifosi interisti, immagino, in lacrime, soprattutto tra i più giovani, perché leggevo prima qualche tweet, qualche messaggio anche postato su Facebook, ma io non ho mai visto l'Inter senza Moratti, dicono i più giovani. In effetti è così, si chiude, volendo essere un po' enfatici, un'epoca, che è stata quella di Ronaldo, degli scudetti persi, degli psicodrammi, dei motorini dagli spalti, degli scudetti di Calciopoli, degli scudetti vinti sul campo, della Champions League, della successiva crisi, di Mourinho, insomma di un sacco di cose. Quindi si sta dentro un po' di tutto in questa storia di Moratti all'Inter. Arriva l'Indo Inter adesso, tutti si stanno domandando che cosa porterà Toir e quanti denari porterà Toir all'Inter. Credo sia un discorso un po' più complesso di così, perché non arriva a fare il Paperone, non arriva a fare il Magnate, non arriva a fare l'Abramovic, ma a quanto pare è un gruppo che intende agire in maniera molto oculata, a partire dall'idea di un nuovo stadio. E gli stranieri sappiamo come spesso si scontrino con la nostra realtà quando si tratta di costruire qualcosa di così importante. Un po' come gli americani a Roma? Sì, un po' come gli americani a Roma, che stanno ancora provando a capire la complessità della realtà italiana. Credo che anche per Toir non sarà facile il periodo di ambientamento, sarà molto importante i consiglieri che sceglierà. Su questo ancora non c'è ovviamente chiarezza. Poi un'altra questione che sta molto a cuore a Moratti e agli interisti è la questione della presidenza, un nodo che Moratti ancora non ha sciolto, perché potrebbe rimanere lui presidente onorario, potrebbe rimanere lui come trade union, come simbolo ancora dell'Inter, però lo stesso Moratti ha detto boh, presidenza ancora non è chiaro, vedremo. Vedremo cosa succederà anche da questo lato nelle prossime ore, così come lo vedremo per quanto riguarda la manovra e come abbiamo detto un attimo fa. Noi adesso nel frattempo ci fermiamo, ci ritroveremo subito dopo. Tra le altre cose che vi vorrò far ascoltare è una bella intervista realizzata dalla nostra Alessandra Tedesco con l'uomo che alle Einaudi fu il successore sostanzialmente di Italo Calvino. Oggi Calvino avrebbe compiuto 90 anni e c'è una bella intervista di racconto, a tra poco. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Non date retta alle indiscrezioni, dice Letta sulla legge di stabilità. Oggi il varo, si prospettano tagli alla sanità che sono al centro dello scontro. Per il cuneo fiscale, ipotesi di un mini taglio da 3 miliardi di euro. Inter firmato il passaggio a Toir. Moratti commosso, ho messo la società in buone mani, non so se rimarrò presidente. Dall'Assemblea all'Italia il via libera all'aumento di capitale da 300 milioni. I consiglieri di amministrazione si dimetteranno a operazione terminata. British Airways attacca, sono aiuti di Stato, Bruxelles intervenga. Napolitano torna a premere per le riforme istituzionali e della legge elettorale. Nervi saldi, dice, di fronte alle emergenze del Paese. Adesso parliamo di letteratura, perché oggi si celebrano i 90 anni dalla nascita di Italo Calvino, uno degli scrittori più apprezzati e amati del Novecento. I suoi romanzi o i racconti vengono spesso letti a scuola. Qualche titolo li conoscete tutti: Il barone rampante, Il sentiero dei nidi di ragno, Il cavaliere inesistente, Le cosmicomiche. Ora la vedova e la figlia hanno deciso di donare i suoi inediti incompiuti alla Biblioteca Nazionale di Roma. Un regalo per i lettori appassionati, come il critico letterario Guido Davico Bonino. A soli 23 anni fu chiamato da Calvino a prendere il suo posto come capo ufficio stampa alle Einaudi e Calvino gli insegnò il mestiere. Ecco il ricordo personale di Davico Bonino, intervistato da Alessandra Tedesco. che fosse una persona, come dire, facile all'approccio con chiunque, questo non era proprio il suo caso, ma perché aveva una, come dire, una sorta di misura interiore, di esigenza a tutti i livelli nei rapporti interpersonali, quindi non era uno che ti buttava le braccia al collo, che si perdeva in smancerie di qualunque genere, però non era neanche quello che una certa leggenda racconta, cioè scontroso, orso, aggressivo, per niente. Aveva una sua misura di umanità molto contenuta, era sostanzialmente anche un timido, e come capita a tutti i timidi l'espansività è un po' difficile, ma era al tempo stesso molto umano, estremamente colloquiale, pronto a venire incontro soprattutto a un giovane a qualunque esigenza. Mi ricordo quando io scrivevo i risvolti e lui mi aggrediva su un aggettivo, aggrediva affettuosamente naturalmente. Che cosa vuol dire struggente? Dice, struggente vuol dire una cosa che ti... Ma non esiste struggente, non è un aggettivo che non dice niente, togli quella roba lì, gli aggettivi devono essere concreti e aggiungere al sostantivo una componente fondamentale, se sono solo così evocativi come i tuoi non servono a un fico. Un giorno mi ha fatto rifare 13 volte un risvolto della Duras, perché gli aggettivi erano sbagliati. Uno scrittore molto esigente e molto preciso, lo ricordiamo che la sua scrittura era veramente pulita. Cristallina, io direi, proprio di un nitore straordinario, ma a prezzo di un lavoro molto forte. Non è che quel tipo di stile lì ti viene così, ci arrivi. Lavorava ore e ore e ore, ma anche a fare le lettere agli aspiranti scrittori, insomma c'è una raccolta che lei conosce, i libri degli altri, in cui tutta la corrispondenza fittissima con gli scrittori aspiranti e anche arrivati costituiva metà della sua giornata in ufficio. L'intervista più estesa andrà in onda sabato nel Cacciatore di Libri alle 22, la trovate se volete anche sul nostro sito internet www.radio24.it. In chiusura di questa parte noi vogliamo tornare a Lampedusa, saluto Maurizio Molina che è il funzionario dell'Agenzia ONU per i rifugiati, l'UNHCR a Lampedusa, proprio buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei, grazie. Allora, buongiorno. Voglio sapere molto brevemente innanzitutto com'è la situazione stamattina. Allora, diciamo, vi do un attimo di numeri in relazione anche al centro qui dove mi trovo di Contrada Embriacola. Siamo arrivati a 905, insomma, 905 persone con l'arrivo di due sbarchi, di 210 il primo e di 90 il secondo. Avvenuti questa notte. Con una capienza teorica del centro di accoglienza? Allora, l'accoglienza, diciamo, pratica è 250, l'accoglienza teorica dovrebbe essere 850, ma dal 2011, quando ci sono stati gli incidenti conosciuti, non è stato poi più messo mano alla riabilitazione del centro, per cui siamo ancora in situazioni abbastanza emergenziali. Il rischio di collasso, mi sembra di capire. Rischio di collasso, insomma, e criticità comunque forti. Criticità forti per quanto riguarda Lampedusa. Riesce a darci un quadro anche un po' di quel che sta succedendo anche nel resto della Sicilia? Perché poi queste persone vengono anche smistate, immagino. Non penso sì, vengono smistate in varie parti, tra cui Porto Empedocle, poi Pozzallo, per poi procedere nei vari diciamo centri di accoglienza. Quello che abbiamo anche evidenziato, quindi le criticità rimangono forti anche su questi altri centri, non solo su Lampedusa. Soprattutto, diciamo, il problema è creato dal sistema attuale di accoglienza, che non è in grado di gestire, diciamo, i numeri di cui stiamo parlando in questi giorni, per cui diciamo, notiamo questa criticità che speriamo sia risolta a partire dal prossimo anno con l'impegno forte del governo ad aumentare da 8.000 attuali a 16.000 i posti disponibili in accoglienza. Le missioni di pattugliamento che sono partite oggi, ed è l'ultima domanda che le faccio, l'operazione, la cosiddetta operazione Mare Nostrum, servirà certamente a far sì che non avvengano più tragedie come quella dell'altro giorno a Lampedusa, della settimana scorsa. e però non risolvono nulla sostanzialmente, mi sembra di capire, dal punto di vista del rischio per quanto riguarda i centri di accoglienza. Ma diciamo che dovrebbe essere inserito in un quadro di attività coordinate. Innanzitutto ben venga questa missione, insomma, se lo scopo poi pratico è quello di salvare vite umane che viaggiano nel Mediterraneo. Poi naturalmente non è sufficiente, quindi ci sono tantissimi altri aspetti da chiarire sia in quadro nazionale che qui in quadro europeo soprattutto. Non sufficiente, brevemente, 10 secondi, cosa servirebbe secondo lei adesso, oltre a questa missione? Ma diciamo che a livello anche europeo ci sia un chiarimento, poi al di là del fatto che vengano queste attività di search and rescue, quindi di salvataggio, e poi cercare di capire come che cosa avviene dopo, cioè il post salvataggio, quindi identificare porti sicuri dove queste persone possano venire mandate, e che in questi primi posti gli si porti accoglienza, però vengano subito smistati poi in centri adeguati. Questo dovrebbe accadere. Grazie Maurizio Molina per essere stato con noi, magari torneremo a contattarla, se non nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Noi ci fermiamo, abbiamo la viabilità e poi dopo, come sempre, l'appuntamento con Mario Platero e America 24. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Andate retta alle indiscrezioni, dice Letta sulla legge di stabilità, taglia la sanità al centro dello scontro. L'Inter è stato firmato il passaggio a Tohir Moratti, ho messo la società in buone mani. L'Assemblea all'Italia, il via libera all'aumento di capitale da 300 milioni. Napolitano torna a premere per le riforme istituzionali e per quella della legge elettorale. E ora ci fermiamo, ascoltiamo che cosa succede negli Stati Uniti, come sempre a quest'ora, con Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24. Buongiorno Simone da New York. Mario Platero, siamo ormai agli sgoccioli, ma ieri sera c'è stato un incontro che potrebbe essere quello determinante, perché si è trovato un accordo per riaprire il governo, un accordo per innalzare il tetto sul debito con delle scadenze, a lungo termine rispetto alle 6 settimane che si immaginavano, e cioè fino al 15 di gennaio sarà riaperto il governo, mentre il tetto sul debito sarà rifinanziato fino al 15 di febbraio. Nel frattempo Obama e i repubblicani andranno al tavolo dei negoziati e cercheranno di risolvere le loro differenze. Ecco, questo è il progetto che ha preso corpo ieri notte e la cosa su cui si lavorerà oggi per portare il progetto di legge ai voti, e naturalmente fino a quando la cosa non è stata votata non è sicura. C'è qualcuno che dice si arriverà all'ultimo minuto dell'ultima ora, cioè si arriverà magari fino al 16, al 17, per mettere a punto i vari dettagli, però diciamo che l'ostacolo principale è stato superato. Dunque aspettiamo il voto, scongiurata l'idea del fallimento americano, e io oggi, visto che ci siamo, vorrei parlarvi d'altro. Tu vuoi fare l'americano? È uno dei classici. Ieri sulla Quinta Strada vi ho anticipato, proprio nella trasmissione di ieri, che ci sarebbe stata la grande parata del Columbus Day. Ebbene, sono andato in effetti per strada e dunque ho fatto un po' di registrazioni, un piccolo mélange di quello che è successo ieri di italiano lungo la Quinta Strada. Per questo giorno rappresentare tutti gli italiani, il futuro di italiano è molto speciale. Yeah. Ciao America 24. Un saluto a tutti gli italiani e buona fortuna.

grazie anche a te Mario, è tutto anche per noi, si chiude Effetto Giorno, un ringraziamento a Laura Faggin in redazione, Filippo Aureggi in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto, ci risentiamo noi tra un attimo con il giornale radio alle 14, Effetto Giorno torna domani alle 13. Ricordati! Mancano 62 giorni al pagamento della seconda rata IMU.